Un saluto agli ascoltatori di Radio Città Fujiko, sono Giuliano Carcuro e oggi siamo in compagnia di Caterina Usai, coordinatrice di Essere Animali per la città di Bologna. Ciao Caterina! Ciao, ciao a tutti e a tutte! Essere Animali è un'organizzazione no profit, appunto con sede qui a Bologna, che esiste per costruire una società che riconosca diritti agli animali, lasciandoli liberi quindi di soddisfare i propri interessi. E la mission di Essere Animali è porre fine proprio agli allevamenti intensivi e quindi promuovere un po' il passaggio a un sistema alimentare che non prevede il consumo di prodotti animali. Caterina, so che dal 12 al 18 giugno Essere Animali promuove la settimana VEG. Ci vuoi spiegare un po' in cosa consiste l'iniziativa? Certo, la settimana VEG è un progetto di Essere Animali nato nel 2014 per aiutare le persone nel percorso verso una scelta sempre più vegetale. È assolutamente gratuito e si tratta di una challenge, di una sfida, quella di provare un'alimentazione vegetale per 7 giorni con il supporto di un menù 100% vegetale, tanti consigli pratici e nutrizionali. Ad affiancarci in questo percorso ci saranno, oltre al team di Essere Animali e Io Scelgo VEG, anche il medico nutrizionista, la dottoressa Silvia Goggi, una creator molto brava in cucina vegetale, Anna Panna Food, e la famosissima cucina botanica per le ricette della domenica. Caterina, cosa vi ha spinto a promuovere in settimana VEG? Allora, prima di tutto per gli animali, perché con un'alimentazione vegetale si risparmia la vita a tantissimi animali. Seconda, non per importanza, per il pianeta, perché l'impatto di un'alimentazione vegetale è sicuramente inferiore a quello di un'alimentazione tradizionale. E poi sicuramente per la nostra salute, perché fa bene mangiare vegetale e scoprire tanti piatti nuovi. Dove si possono iscrivere, Caterina, gli interessati, insomma, all'iniziativa? Allora, ci si iscrive gratuitamente sul sito www.settimanaveg.it e da quel momento si riceve una guida con un menu completo e tanti consigli pratici. Poi durante la settimana VEG ogni giorno gli iscritti riceveranno anche una mail di supporto con dei nuovi consigli e poi sui social, sia di Essere Animali che Io Scelgo VEG, quindi Facebook, Instagram e YouTube, ci saranno degli eventi e degli appuntamenti live sempre in supporto, perché la settimana VEG è più bella se la si fa tutti insieme. Benissimo, quindi ricordiamo ancora una volta agli ascoltatori di partecipare appunto attivamente alla settimana VEG dal 12 al 18 giugno. Grazie Caterina per aver condiviso con noi questa iniziativa e a presto. Grazie a voi, grazie mille.